I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Con la lettera inviata da Bruxelles all'Italia ieri, la palla viene rilanciata nel campo italiano. In sostanza, la Commissione europea chiede formalmente all'Italia misure aggiuntive pari allo 0,2% del PIL, si tratta di circa 3 miliardi e 400 milioni, per evitare l'apertura di una procedura per deficit eccessivo. Ossia, se non verrà ridotto il nostro deficit previsto di quell'ammontare, l'Europa interverrà con la procedura di infrazione. Ma non solo, perché Bruxelles chiede anche una risposta pubblica che comprenda impegni specifici sufficientemente dettagliati e un chiaro calendario per la loro rapida adozione legale. Il tutto deve arrivare entro febbraio. A voler essere maliziosi, si potrebbe dire che questa è la risposta o la controrisposta alle dichiarazioni dell'altro ieri del ministro dell'economia Padoan che, dopo aver appreso che l'Europa si apprestava a chiederci una correzione ulteriore, aveva risposto «vedremo». Ma che il sospetto legge Bruxelles lo si capisce anche dalla richiesta di avere impegni specifici e sufficientemente dettagliati, oltre che un calendario preciso. Come dire, già nella manovra del 2015 vi avevamo concesso flessibilità, adesso vogliamo capire esattamente come riuscirete a rientrare su questo eccesso di deficit che, vale la pena ricordarlo, non contempla gli effetti straordinari, ossia per l'anno che si è appena chiuso, terremoto e flussi migratori. Il Ministero dell'Economia quindi ha tempo un mese e mezzo per dare una risposta e vedremo come si articolerà quella che una volta sarebbe stata chiamata una manovra correttiva. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che siamo abituati a conoscere come pacato argomentatore dai toni bassi e dall'eloquio diplomatico, oggi ci ha stupito. A Davos ha davvero cambiato registro. Sentite cosa ha detto. Il problema dell'Europa è l'Europa. I nostri problemi nascono a Bruxelles e talvolta a Francoforte. Questo è il problema. Dobbiamo rovesciare completamente le politiche perché ora si stanno dando i giusti argomenti per convincere che il populismo ha ragione. Come dargli torto? Lui sa bene, stando nella cabina di regia della politica economica, quanto siano complesse le risposte che si possono dare oggi alla crisi e quanto tempo richiedano per dispiegare tutti i loro effetti. Prendiamo le banche. La regolazione europea ha reso un Vietnam la gestione delle sofferenze per le banche italiane, facendo finta di nulla invece sulla valutazione di titoli tossici di cui sono piene le banche tedesche, francesi o spagnole. Prendiamo il debito. In Italia si è stabilizzato, è molto alto naturalmente, ma Francia e Germania lo hanno fatto crescere in pochi anni quasi del 50%, ma l'Europa continua a considerare questo dato come lo stigma di un paese potenzialmente insolvente, quando invece ha il più alto tasso di risparmio privato, cresciuto negli ultimi tempi tra l'altro, e ha le migliori performance nell'avanzo primario del suo bilancio pubblico. Insistere sugli obblighi contabili e dei parametri impedisce di dispiegare all'Italia politiche davvero espansive e funzionali al recupero della crescita. Certo, l'Italia deve fare molto di suo, a cominciare al miglioramento della produttività, che è il vero parametro stagnante indicativo di un paese che non riesce a ottimizzare i suoi investimenti. Però tutto questo richiede tempo e visione, appunto, le fibrillazioni della politica non aiutano e, per dirla ancora con il Padoan di oggi, ciò che accade con l'avvento del populismo globale richiede il ripensamento della leadership. Trump e i seguaci di Brexit hanno una visione, l'Europa purtroppo non ha una visione da offrire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.